davvero vuoi una vita spericolata, sarebbe forse meglio farsi una dormita. Ti vedi viaggiare su un treno in Alabama, non puoi sapere che la vita ti scama. Emma Spezzali canta la TV, America non è uno stato d'animo e neppure un detective rude magnanimo. È finito l'episodio di CSI, cosa fare adesso? Tu non lo sai, ti eri assopito davanti alla TV, giri canale un po' distratto, alzi gli occhi. Emma Spezzali canta la TV, la nebbia della piana dentro ai polmoni, che manco liga più la mette nelle sue canzoni. Sogna ancora la mitologia del vecchio West, ma la tua vita è solo questo, per la rima ovviamente. Sei lì dopo una giornata di lavoro, davanti al divano, davanti alla TV, sul divano, distrutto. Butti l'occhio alla TV e... Emma Spezzali canta la TV. Passa il tempo. Tu invecchi. Lui no, è sempre lì, è sempre lì. Col cappellino, il sorrisino e le canzoncine che cantiamo tutti. Sei un mito. Da Pavia. E l'America, seconda stella a destra, forse. Emma Spezzali canta la TV.